Alcune caratteristiche della dottrina islamica. La Sharia regola la vita del singolo e quella della collettività in tutti i campi della vita, nel privato e nel pubblico, nell'individuale e nel sociale. La ratio legis di ogni norma sharaitica è la promozione di tutto ciò che è bene e utile al singolo e alla collettività e la prevenzione di tutto ciò che è male e dannoso al singolo e alla collettività. La Sharia è una struttura normativa organica e onnicomprensiva, dalla quale prende forma uno schema di vita individuale e un ordinamento sociale fondati sul principio che nessuno ha titolo per essere padrone dell'uomo tranne Allah, il Dio. Soltanto quando l'uomo mette in pratica le norme della Sharia è in grado di realizzare la pienezza della sua qualità umana e lo scopo della sua esistenza terrena, perché essa è la struttura normativa nella quale Allah, il Dio, ha messo a disposizione della creatura umana lo strumento per la realizzazione sulla terra della figura d'uomo destinato al paradiso, l'uomo cioè nel quale si realizza l'armonia della vita spirituale e della vita materiale.